Il Partito Comunista Italiano fu tra i primi a scommettere sul videotel della SIP. Come è andata la scommessa lo sappiamo tutti. Il videotel della SIP è lì boccheggiante. Il Partito Comunista Italiano invece è morto. Mi ricordo di un giorno, un paio d'anni fa, che gironzolavo fra le videate del videotel, e mi sono imbattuto nelle comunicazioni telematiche del Partito Comunista. C'era la voce, non dico delle cellule, ma degli organismi più rilevanti, no? C'era il PC di Reggio Emilia, il PC di Bologna, il PC di Roma. Scelsi quello di Roma. Vi si offriva il calendario delle feste dell'unità, indirizzi e numeri di telefono utili, il regolamento per la lotteria interna e la casella postale per il sondaggio diretto con i compagni. In fondo il menu offriva la voce iniziative politiche e io schiacciai quella. Mi venne fuori una videata tutta grigia con una scritta in mezzo: pagina inesistente. Più volte sono stato tentato di collegare questo insignificante, lo ammetto, questo minuscolo episodio con quanto poi è accaduto nella vita politica del paese, ma me ne sono sempre rattenuto. Oggi invece leggo sulle fiancate dei tram che l'Unità non è più un giornale, ma sono due giornali in uno. Il Partito Comunista non c'è più, mi son detto, ma la linea politica rimane. Prima l'iniziativa politica che era inesistente, adesso un'unità che al posto di rimanere un'unità continua a chiamarsi unità ma si è fatta in due. C'è qualcosa che non va, qualcosa non quadra. Non vorrei che agli eredi siano toccate le stesse cause della malattia che ha portato alla tomba coloro dai quali hanno ereditato.